Sta bene stamane, Miss Tulliver? Disse Steven volgendosi verso Maggie con fredda cortesia e tendendole la mano con l'aria di compiere un dovere mondano. Maggie gli porse la punta delle dita e disse: Tanto bene, grazie, in tono di orgogliosa indifferenza. Philip li teneva d'occhio vivamente, ma Liu si era avvezza a scorgere delle variazioni nel loro contegno reciproco e si limitò a riflettere con rammarico che una tal quale antipatia istintiva prendeva ogni tanto il sopravvento sul loro mutuo buon volere. Maggie non è il tipo di donna che Steven ammira, ed ella a sua volta è irritata da qualcosa di lui che interpreta come vanità. Era questa, per l'ingenua Liu, la tacita osservazione che tutto spiegava. Steven e Maggie avevano appena terminato questo artefatto saluto che ciascuno di loro si sentì offeso dalla freddezza dell'altro. E Steven, pur mentre moltiplicava le domande a Philip circa la sua recente spedizione pittorica, tanto più pensava a Maggie che non gli riusciva di trascinare nella conversazione, come aveva invariabilmente fatto per l'innanzi. Maggie e Philip non hanno l'aria felice, pensava Lucy. Questo primo incontro li ha contristati. Noi altri che non abbiamo galoppato come voi, disse a Steven, mi pare che siamo un poco infreddoliti dalla pioggia. Facciamo un po' di musica, bisogna pure che approfittiamo dell'occasione di avervi qui insieme, Philip e voi. Eseguiteci il duetto di Masaniello. Maggie non l'ha mai sentito e so che le piacerà. Avanti allora, disse Steven andando verso il pianoforte e provando la melodia col suo profondo brum brum assai piacevole a udirsi. Voi, Philip, per piacere, fate l'accompagnamento, disse Lucy, e così io potrò andare avanti nel mio lavoro. Avete voglia di suonare, non è vero? Soggiunse con un grazioso sguardo interrogativo, e come al solito inquieto, per tema di aver proposto cosa che ad altri non piacesse, ma sollecita al tempo stesso del suo ricamo da terminare. A quella proposta Philip si era animato perché non c'è sentimento, forse, eccetto la paura e la tristezza estrema, che non trovi sollievo nella musica e non renda capaci di cantare o di suonare nel modo migliore. E Philip, a quel momento, aveva in sé una tal piena di affetti racchiusi, complessa quanto qualunque trio o quartetto che abbia mai voluto esprimere amore e gelosia e rassegnazione e fierezza a un tempo. Oh sì, disse sedendosi al pianoforte. È un modo di completare la nostra imperfetta vita, quello di essere tre persone in una volta. Cantare e far cantare il pianoforte e insieme sentire l'uno e l'altro, oppure cantare e dipingere. Ah, tu sei un uomo invidiabile, delle mie dita io non riesco a fare nulla, disse Steven. Questo si è sempre veduto, credo, negli uomini di grande capacità amministrativa. In me c'è una tendenza al predominio delle facoltà riflessive. Non ve ne siete mai accorta, Miss Tulliver? Steven era ricaduto per sbaglio nella sua abitudine di rivolgersi scherzosamente a Maggie, la quale non poté trattenere un pronto epigramma di risposta. Di una tendenza al predominio me ne sono accorta, disse sorridendo, e Philip in quel momento sperò sinceramente che ella trovasse sgradevole quella tendenza. Via, via, disse Lucy, musica, musica. Sulle qualità di ciascuno di noi discuteremo un'altra volta. Maggie aveva sempre tentato, ma invano, di continuare il proprio lavoro quando cominciava la musica. Più che mai vi si sforzò quel giorno perché il pensiero che Steven sapesse quanto le piaceva il suo canto era di quelli che ormai non si limitavano a suscitare in lei una resistenza scherzosa. Sapeva inoltre che egli aveva l'abitudine di mettersi in una posizione da cui la potesse vedere, ma fu inutile. Subito ella lasciò ricadere il lavoro e tutti i suoi propositi si perdettero nello stato di vaga emozione indotta da quel duetto ispirato, emozione che pareva renderla energica e debole a un tempo, energica nel godere, debole nel resistere. Quando la tonalità passò in minore, ella quasi balzò dalla propria seggiola per il subitaneo brivido di quel cambiamento. Povera Maggie, appariva molto bella quando l'anima sua era così posseduta dall'inesorabile potere dei suoni. Il più lieve fremito, il più impercettibile, diventava visibile attraverso tutta la sua persona, mentre ella si protendeva un poco in avanti, stringendosi le mani, come per trattenersi, mentre gli occhi le si dilatavano, e brillavano in quell'aperta, puerile espressione di meravigliata delizia che sempre le tornava nei momenti più felici. Lucy, che le altre volte, quando Maggie prendeva quell'espressione, si era sempre trovata al pianoforte, non poté resistere all'impulso di accostarsi silenziosamente a lei e di baciarla. Anche Philip le lanciava ogni tanto uno sguardo al di sopra dello spartito aperto sull'eggio e s'accorgeva di non averla mai veduta sotto l'impero di così potente influenza. «Ancora, ancora!» disse Lucy quando il duetto fu applaudito. «Ancora qualche cosa di animato. Maggie dice sempre che ama i grandi impeti sonori.» «Allora bisogna eseguire, prendiamola via!» disse Steven, «che va così bene per un mattino di pioggia. Ma siete disposta ad abbandonare i più sacri doveri della vita per venire a cantare con noi?» «Oh sì!» disse Lucy ridendo. «Se volete cercare l'opera del pezzente nel grande scaffale, ha una copertina stazzonata.» «È bella indicazione! Di partiture con la copertina altrettanto stazzonata qui ce n'è un sacco!» disse Steven, aprendo lo scaffale. «Oh, intanto suonateci voi qualcosa, Philip!» disse Lucy, sentendo che le dita di lui vagavano sulla tastiera. «Che cos'è che state accennando? È delizioso, ma non so che cosa sia.» «Davvero non conoscete questo?» disse Philip, disegnando più nettamente la melodia. «È un'aria della sonnambula. Ah, perché non posso odiarti?» «Non conosco tutta l'opera, ma si capisce che il tenore sta dicendo all'eroina che l'amerà sempre, anche se la potrà scordarsi di lui. Avete già sentito cantarla con le parole inglesi I love thee still.» Non senza qualche intenzione, Philip si era lasciato smarrire in quella melodia che poteva essere un'espressione indiretta di ciò che egli non osava assumersi di dire direttamente a Maggie. Ella non si era lasciata sfuggire le parole di Philip, e quando questi cominciò a cantare, comprese il lamento appassionato della musica. Quel tenore implorante non aveva come voce delle grandi qualità, ma la melodia non le riusciva del tutto nuova. Già le era stata cantata per accenni sottovoce lungo i sentieri erbosi tra le siepi e sotto il frassino inclinato dei fondi rossi. Pareva che nelle parole ci fosse un certo rimprovero. Rispondeva all'intenzione di Philip. Ella pensava che avrebbe dovuto, durante la loro conversazione, fargli capire più nettamente che, se non desiderava di rinnovare una speranza d'amore, era solo perché questa si urtava contro impedimenti per lei inevitabili. Era toccata, non commossa, dal canto che le suggeriva precise memorie e pensieri e faceva subentrare all'agitazione un tranquillo rammarico. «Sempre così, voi altri tenori», disse Steven, che con la musica in mano stava aspettando che Philip terminasse la sua aria. «Voi demoralizzate il bel sesso, gorgheggiando il vostro amor sentimentale e la vostra costanza, ad onta dei peggiori trattamenti. Eppure l'imminenza di vedere la vostra testa servita su un piatto come quel tenore o trovatore medievale può trattenervi dall'esprimere una completa rassegnazione. Ah, bisogna che io somministri un controveleno mentre Miss Dian si prepara a staccarsi dalle sue matassine.» E Steven arrotò con sfacciata energia. «E dovrò, consumandomi in pianto, morire perché bella è una donna?» E parve ravvivare, sotto nuovi influssi, tutta l'atmosfera della stanza. Lucy, sempre fiera di quel che Steven faceva, gli volse un ridente sguardo di ammirazione mentre si avvicinava al pianoforte. E Maggie, a dispetto della sua resistenza alla vivacità del canto, nonché al cantore, fu rapita e tutta scossa da quell'invisibile influsso, travolta da una corrente troppo più forte di lei. Ma, stizzosamente decisa a non tradirsi, riprese il suo lavoro e seguitò, con molta perseveranza, a sbagliare i punti, a pungersi le dita, senza alzare lo sguardo né fare attenzione a ciò che stava succedendo, finché le tre voci si riunirono sul prendiamola via. Temo che avrebbe provato dentro di sé una gioia sottile e penetrante se avesse saputo come quello sfacciato e temerario Steven era completamente occupato di lei e passava rapidamente dalla decisione di trattarla con ostentata indifferenza all'irritato desiderio di ricevere qualche segno di simpatia, di scambiare con lei qualche parola o sguardo furtivo. Non andò molto che egli ne trovò l'occasione, allorquando furono passati alla musica della tempesta. Sentendo il bisogno di uno sgabello, Maggie stava attraversando la stanza per prendersene uno, quando Steven, che in quel momento non cantava ed era attento a tutti i movimenti di lei, indovinò il suo desiderio e si precipitò per prevenirla, porgendo lo sgabello con uno sguardo supplichevole a cui non si poteva a meno di rispondere con un'occhiata di gratitudine. E poi vedersi mettere sotto i piedi con tanta cura lo sgabello da un personaggio così sicuro di sé, e non già da uno qualunque, ma da uno speciale, che d'improvviso prende un'aria umile e inquieta e si ferma ancor curvo per domandare se a quel punto non ci sia riscontro di aria tra la finestra e il camino, e se gli si permetta di spostare il tavolo da lavoro. Son cose che una certa tenerezza, anche troppo pronta e traditrice, finiranno col suscitarla negli occhi di una donna costretta, come Maggie, nei suoi anni di fanciullezza, ad apprendere le lezioni della vita in un linguaggio molto prosaico. E poi, simili cose non erano state per Maggie degli episodi quotidiani, anzi, apparivano nuove nella sua vita e trovavano ancora intatto il suo vivo desiderio di omaggi. Quel tono di cortese sollecitudine la obbligò a guardare il viso chino verso di lei e a rispondere «No, grazie», mentre nulla poté impedire a quel reciproco sguardo di essere per entrambi delizioso come lo era stato la sera innanzi. Da parte di Steven non si era trattato che di un atto di semplice cortesia, durato 2 minuti a malapena. Lucy, che stava cantando, quasi non se ne accorse. Ma per Philip era già pieno di un'ansia vaga e pronta a trovare un preciso motivo nei fatti anche più banali. Quell'improvvisa premura da parte di Steven e il mutamento sul volto di Maggie che evidentemente rifletteva lo sguardo acceso di lui. Parvero contrastare così nettamente coi precedenti segni di esagerata indifferenza da riuscirgli carichi di penosi significati. La voce di Steven, tornando a prorompere, ferì la sua suscettibilità nervosa come fosse stata un fragore di lastre metalliche, ed egli si sentì la voglia di far stridere il pianoforte in aspre dissonanze. Motivi plausibili per sospettare qualche insolito sentimento tra Steven e Maggie, in realtà non ne aveva trovati. Così gli diceva la ragione, ed egli desiderava di tornarsene subito a casa per riflettere con freddezza su queste ingannevoli immaginazioni, fino a potersi convincere della loro insussistenza. Ma poi, da capo, desiderava di rimanere fin tanto che rimaneva Steven e di essere sempre presente quando Steven era con Maggie. Al povero Philip pareva così naturale, anzi inevitabile, che qualunque uomo, trovandosi accanto a Maggie, si innamorasse di lei. Eppure promesse di felicità se si lasciava travolgere ad amare Steven Guest. Per lei non ce n'erano, e questo pensiero incoraggiava Philip a considerare il proprio amore per Maggie come un'offerta meno diseguale. Tra questo discordo e tumulto interiore cominciava a suonare tutto falso, e Lucy stava guardandolo con stupore quando l'entrata di Mrs. Tulliver, venuta a chiamarli per la colazione, fornì un pretesto per troncare bruscamente la musica. «Ah, Mr. Philip», disse Mr. Dean, quando essi entrarono in sala da pranzo, «è tanto che non vi vedo. Vostro padre non è qui, vero? Sono stato a cercarlo ier l'altro in ufficio e mi hanno detto che era fuori della città». «Oh, sì, è stato qualche giorno a Mudport per affari», disse Philip, «ma ora è tornato. Più che mai preso dalla sua smania agricola, non è vero?» «Credo di sì», disse Philip, alquanto meravigliato di questo improvviso interesse per i lavori di suo padre. «Ah», disse Mr. Dean, «e possiede dei terreni, oltre che su questa, anche sull'altra riva del fiume, non è vero?» «Sì, certo». «Ah», seguitò Mr. Dean, mentre offriva il pasticcio di piccione, «non mancherà di trovare che è un affare serio l'agricoltura, una fantasia che costa cara. Io, per mio conto, di fantasie non ne ho avute mai, non ci sono mai cascato. E il peggio di tutte queste manie è che si crede che rendano del denaro e allora si profondono i quattrini come i chicchi di grano da un sacco». Lucy Si sentiva un po' nervosa a queste critiche apparentemente gratuite che il babbo faceva delle spese di Mr. Wakem. Ma la cosa rimase lì e Mr. Dean divenne insolitamente silenzioso e meditabondo durante tutta la colazione. Abituata a sorvegliare tutte le espressioni del padre ed avendo poi le sue ragioni, fattesi più gravi negli ultimi tempi, di interessarsi parecchio a quel che si riferiva ai Wakem, Liu si provava un'insolita curiosità di sapere cosa mai avesse spinto il babbo a fare quelle domande. Il silenzio che era seguito la induceva a sospettare che il babbo avesse i suoi buoni motivi. Con quest'idea nella testa, ricorse al sistema di tutte le volte che voleva dire o domandare al babbo qualcosa di speciale. Trovò, dopo pranzo, una scusa per allontanare zia Tulliver dalla sala e si sedette su un piccolo sgabello presso i ginocchi di suo padre. Nei casi come quello, Mr. Dean stimava di gustare uno dei più gradevoli momenti che i suoi meriti gli avessero procacciato nella vita, quantunque Lucy, poco amando di avere i capelli incipriati di tabacco, cominciasse di solito in simili occasioni con l'impadronirsi della tabacchiera paterna. Papà, non hai ancora voglia di andarti a riposare, vero? Gli disse mentre avvicinava il suo sgabello e apriva le grosse dita che stringevano la tabacchiera. Ancora no, disse Mr. Dean, lanciando verso la bottiglia uno sguardo di meritata riconoscenza. Ma che cosa desideri? Soggiunse, pizzicandole teneramente le fossette della guancia. Portarmi via di tasca qualche sovrana per la tua vendita di beneficenza? No, quest'oggi non ho bassi motivi. Soltanto parlare voglio, non mendicare. Desidererei sapere perché mai quest'oggi ti sei messo a fare quelle domande a Philip Wakem sugli affari agricoli di suo padre. Mi è parso abbastanza curioso, visto che non ti interessi mai di suo padre. Che ti importa, infine, se Mr. Wakem perde del denaro con le sue manie? Oh, c'è qualcosa che riguarda i miei affari, disse Mr. Dean, agitando le mani come per respingere qualunque intrusione in quel mistero. Ma papà, tu dici sempre che Mr. Wakem ha allevato Philip come una ragazzina. Come ti è venuto in mente che lui ti potesse dare delle informazioni di affari? Quelle domande a bruciapelo suonavano abbastanza bizzarre, Philip le trovava strane. Oh, sciocchezze, piccina, disse Mr. Dean, sollecito a difendere la propria condotta in società, che gli era costata parecchia fatica durante i progressi della sua carriera. Corre voce che mulino e fattoria di Wakem sull'altra riva del fiume, il mulino di Dorlcote, quello di tuo zio Tulliver, lo sai, non gli rendano più come prima. Volevo vedere se il tuo amico Philip si lasciava sfuggire che suo padre comincia a essere stanco di quella proprietà. Come? Lo compreresti tu il mulino, papà, se quello vuol disfarsene? Disse vivamente Lucy. Oh, dimmi bene. Ecco, riavrai la tua tabacchiera se parli. Perché Maggie dice che il loro desiderio più grande è che Tom possa un giorno riprendere il mulino. Una delle ultime cose che suo padre gli disse fu che doveva recuperarlo. Zitta, mia piccola amicina, disse Mr. Dean, approfittando della tabacchiera che gli era stata restituita. Non devi far parola di queste cose, capisci? Ci sono ben poche probabilità che loro o altri riescano a portar via il mulino dalle mani di Wakem. E se quello sapesse che noi ne saremmo acquirenti con l'intenzione di rimetterci Tulliver, sarebbe meno che mai disposto a disfarsene. Da principio si era mostrato abbastanza buono con Tulliver, ma i colpi di frusta non sono cose da ripagarsi con confetti. Via, babbo, disse Lucy con una piccola aria di solennità. Vuoi fidarti di me? Tu non mi devi domandare i motivi di ciò che sto per dirti, ma i miei motivi li ho, e seri, e poi sono molto prudente, te lo assicuro. Bene, sentiamo. Ecco. Io credo che se mi lasci mettere Philip Wakem a parte delle nostre confidenze, se lasci che io gli parli per bene del tuo desiderio di comprare il mulino e gliene dica il perché, cioè che i miei cugini vogliono riaverlo e le ragioni per cui lo vogliono, credo che Philip potrà aiutarti a condurre la cosa in porto. So che desidererebbe di farlo. Non vedo come si possa, piccina, disse Mr. Dean con aria perplessa. Cosa vuoi che gliene importi? Poi, con un improvviso, penetrante sguardo alla figlia, credi forse che quel povero ragazzo sia innamorato di te e di poter fargli fare ciò che vuoi? Mr. Dean si sentiva assolutamente tranquillo circa gli affetti di sua figlia. Oh no, papà, si occupa pochissimo di me, meno di quanto io mi occupi di lui, ma ho qualche motivo per essere assolutamente sicura di ciò che ti dico. Non mi fare domande, e se mai indovini, non me lo dire. Permettimi solo di fare ciò che credo opportuno. Liu Xi si alzò dal suo sgabello per sedersi sui ginocchi del babbo e lo baciò, rivolgendogli quest'ultima preghiera. Sei ben certa di non combinare pasticci? Egli disse, guardandola con delizia. Sì, papà, assolutamente, sono molto saggia io. Ho preso da te il bernoccolo degli affari. L'hai ammirato, sì o no, il mio bel libro dei conti, quando te l'ho mostrato? Bene, bene. Se quel giovanotto saprà tenere per sé il segreto, gran male non potrai farne. E poi, per dir la verità, non credo che per altre vie ci siano molto maggiori probabilità di riuscita. Adesso lasciami andare a dormire. 8. Wakeham sotto una luce nuova. Non erano passati 3 giorni dalla conversazione che voi avete or ora intesa tra Liu Xi e suo padre, che già ella era riuscita ad avere un colloquio a 4 occhi con Philip durante una visita di Maggie a zia Glegg. Per un giorno e una notte, con incessante agitazione, Philip mulinò per il capo quanto Liu Xi gli aveva detto in quel colloquio, finché si trovò ad avere completamente fissata una linea di azione. Credeva ormai di scorgere davanti a sé una possibilità di cambiare i propri rapporti con Maggie e di rimuovere uno almeno degli ostacoli che si ergevano tra di loro. Architettò il suo piano e ne calcolò tutte le mosse con la fervida deliberazione di un giocatore di scacchi ai giorni del primo entusiasmo, ed era stupito egli stesso del suo improvviso genio tattico. Il piano era altrettanto ardito quanto calcolato a fondo. Atteso il momento in cui il padre non avesse per le mani nulla di più urgente che il giornale, venne dietro di lui, gli pose una mano sulla spalla e disse: «Babbo, vuoi venire su nel mio santuario a vedere i miei nuovi disegni? Li ho riordinati adesso». «Oh, le mie giunture stanno facendosi terribilmente rigide, Phil, perché io possa salire tutte le tue scale», disse Wakeham, deponendo il giornale e guardando con tenerezza il proprio figliuolo. «Ma fa lo stesso. Andiamo. Grazioso per te questo locale, vero, Phil? Magnifica questa illuminazione dal lucernario, eh?» Furono come al solito le prime cose che disse entrando nello studio. Gli piaceva di ricordare a se stesso e al figlio che era stata la sua indulgenza paterna a provvedere quella sistemazione. Era stato un buon padre. Emily non avrebbe avuto nulla da rimproverargli se fosse tornata indietro dalla sua tomba. «Orsù, orsù!» disse, inforcando gli occhiali sul naso e sedendosi per dare un'occhiata generale, nonché riposarsi. «Hai messo insieme una famosa esposizione qui? Parola mia, non credo che i tuoi lavori valgano meno di quelli dell'artista di Londra, e come si chiama? Per cui Liborn ha speso tanti quattrini?» Philip scosse il capo e sorrise. S'era seduto sul suo sgabello da pittore e aveva preso in mano una matita con cui stava tracciando degli energici segni per reagire alla sensazione di tremito. Osservava suo padre, che s'era alzato e girava adagio, fermandosi con benevolenza davanti alle pitture, molto più a lungo di quanto esigesse la sua dose istintiva di gusto per il paesaggio, finché si arrestò davanti a un cavalletto su cui erano collocati 2 quadri, uno molto più grande dell'altro e il più piccolo in un astuccio di cuoio. «Misericordia, che hai qui?» disse Wakeham, sorpreso per quella brusca transizione dal paesaggio al ritratto. «Credevo che avessi abbandonato la figura. Chi sono queste?» «È la stessa persona», disse Philip con calma prontezza, «in età differente». «E che persona?» disse aspramente Wakeham, fissando il quadro più grande con uno sguardo di crescente sospetto. «Miss Tulliver. Quello piccolo vorrebbe dare un'idea di com'era quando mi trovavo in collegio con suo fratello a Kings Lorton, quello grande invece di com'era quando sono tornato dall'estero, ma è un po' meno somigliante». Wakeham si voltò fieramente, col viso in fiamme, lasciando cadere gli occhiali e guardando per un momento il figlio con espressione selvaggia, come fosse sul punto di buttar giù dallo sgabello quel ragazzo debole e temerario. Ma poi tornò a gettarsi sulla poltrona e cacciò le mani nelle tasche dei calzoni, seguitando tuttavia a guardare crucciosamente il figlio. Philip non ricambiò lo sguardo, ma rimase tranquillamente seduto a esaminare la punta della propria matita. Il che vorrebbe dire che hai avuto qualche relazione con lei, dopo che sei tornato dall'estero? Disse finalmente Wakem, con quel vano sforzo con cui sempre la rabbia tenta infliggere, attraverso le parole e il tono, tutta la punizione che desidererebbe quando non sono permesse le botte. Sì, l'ho molto veduta, e per tutto un anno, prima della morte di suo padre. Ci incontravamo spesso in quel boschetto, i fondi rossi, vicino al mulino di Dorlcote. L'amo teneramente. Non saprò mai amare altra donna. Sempre ho pensato a lei fin da quando ero una piccola bimba. Avanti, signor mio. E siete stato in corrispondenza con lei durante tutto questo tempo? No. Fino all'ultimo momento in cui ci siamo separati non le ho mai detto che l'amavo. Ed ella ha promesso a suo fratello di non vedermi più e di non tenersi in corrispondenza con me. Non so neppure con certezza se mi ami, se consentirebbe a sposarmi, ma se consentisse, se mi amasse abbastanza per farlo, io la sposerei. Ed è così che ricambi tutta l'indulgenza di cui ti ho circondato? Disse Wakem, impallidendo e cominciando a tremare in una rabbiosa sensazione di impotenza di fronte alla calma di sfida di Filippo e alla fermezza dei suoi propositi. No, babbo. Disse Filippo, alzando per la prima volta lo sguardo verso di lui. Qui non si tratta di ricambiare. Tu sei stato per me un babbo indulgente, ma ho sempre sentito che agivi così per l'affettuoso desiderio di darmi quel tanto di felicità che la mia disgraziata sorte poteva comportare. Non ho mai pensato a un debito che io dovessi pagarti, sacrificando tutte le mie possibilità di essere felice per soddisfare certi tuoi sentimenti che non potrò mai condividere. Credo che, in un caso come questo, la maggior parte dei figliuoli condividerebbero i sentimenti dei loro padri, disse Wakem amaramente. Il padre della ragazza era un bruto e un pazzo che per un pelo ha mancato di assassinarmi. Tutta la città lo sa. Il fratello è altrettanto insolente, ma in maniera più fredda. Le ha proibito di vederti, mi dici? Spezzerà tutte le ossa del tuo corpo per la tua maggior felicità se non ci badi. Ma tu sei deciso, a quanto pare. Spero che avrai vagliato le conseguenze. Naturalmente sei libero e puoi sposarla domani, quella ragazza, se ti piace. Sei un uomo di 25 anni, fa pure la tua strada, che io farò la mia. Noi non abbiamo più nulla a che vedere l'uno con l'altro. Wakem si alzò e andò verso la porta, ma qualcosa lo trattenne, sicché, invece di abbandonare la stanza, si mise a passeggiare avanti e indietro. Philip fu lento a rispondere. E quando parlò, la sua voce aveva una calma e una chiarezza più che mai incisive. No, non posso sposare Miss Tulliver, quando anche ella volesse, se per mantenerla non ho che le mie risorse. Non mi è stata data alcuna professione, non posso offrirle la mia povertà, come già le offro la mia deformità. Ah, ecco la ragione per cui ti aggrappi a me. È ben chiaro. Disse Wakem sempre con amarezza, quantunque le ultime parole di Philip fossero state un'ammazzata per lui, smuovendogli un sentimento che da un quarto di secolo gli era divenuto un'abitudine. Si lasciò ricadere sulla poltrona. Tutto questo me lo aspettavo, disse Philip. So che scene come queste succedono spesso tra padre e figli. Se io fossi come gli altri uomini della mia età, potrei rispondere alle tue dure parole. Con altre ancora più dure ci potremmo separare. Io sposerei la donna che amo e avrei la possibilità di essere felice come tutti gli altri. Ma tu, se ti fa piacere di annientare addirittura lo scopo di tutto quel che hai fatto per me, hai sulla maggior parte dei padri il vantaggio di potermi completamente privare della sola cosa che darebbe qualche valore alla mia vita. Philip tacque, ma il padre rimaneva in silenzio. Sei meglio di me. Quali soddisfazioni potresti avere, oltre a quella di sfogare un ridicolo rancore degno soltanto di nomadi selvaggi? Ridicolo rancore? Scoppiò Wakem. Che intendi dire per l'inferno? Ma può un uomo essere preso a frustate da un villano e poi ancora amarlo per questo? E oltre a tutto c'è quel diavolo di un figlio freddo e orgoglioso che, quando si è fatta la transazione, mi ha detto una parola che non potrò mai dimenticare. Sarebbe il più piacevole bersaglio che io conosca per un colpo di pistola, se ne valesse la pena. Non parlo dei tuoi risentimenti contro di loro, disse Philip, che aveva le sue ragioni per simpatizzare con queste vedute su Tom. Quantunque un impulso di vendetta non sia cosa troppo degna perché tu debba continuare a covarlo. Parlo del rancore che tu estendi contro una fanciulla indifesa, la quale ha troppo sentimento e troppa bontà per condividere quei gretti pregiudizi. Non è mai entrata lei nelle liti della sua famiglia. E che significa questo? Non si domanda cosa fa una donna, si domanda a che famiglia appartiene. Pensare di sposare la figlia del vecchio Tulliver è cosa che ti degrada in tutti i modi. Per la prima volta in questo dialogo, Philip perdette un poco del suo controllo su se stesso e arrossì di collera. Miss Tulliver, disse con amara sincerità, ha semplicemente quei titoli a una posizione sociale che solo una volgare ignoranza non riconosce alla classe media. È perfettamente a modo e i suoi parenti, quali che possano essere, sono rispettati per il loro irreprensibile onore e la loro integrità. Tutta St. Ogg's, credo, potrebbe riconoscerla come più che una mia uguale. Wakeham lanciò al figlio un'occhiata di sdegnosa interrogazione. Ma Philip non lo guardava e qualche momento dopo, con un certo senso di contrizione, continuò come per spiegare le sue ultime parole. Trovami in St. Ogg's una sola persona la quale non sia disposta a dichiararti che una bella creatura come quella si sprecherebbe con un povero essere come me. Non lei, però, disse Wakeham, tornando ad alzarsi, dimenticando ogni altra cosa in uno scoppio di orgoglioso risentimento, mezzo paterno e mezzo personale. Un colpo simile sarebbe diabolicamente bello per lei. Che cosa conta una deformità accidentale quando una donna è davvero attaccata a un uomo? Ma è difficile che le signorine si attacchino in simili casi, disse Philip. Bene, allora, disse Wakeham quasi brutalmente, tentando di recuperare la sua precedente posizione. Se lei non si cura di te, potevi risparmiarti la noia di parlarmene, risparmiando anche a me la noia di rifiutarti il consenso per una cosa che non avrebbe nessuna probabilità di avverarsi. Wakeham si slanciò verso la porta e, senza più volgersi indietro, la batté con fragore dietro di sé. Philip non era senza fiducia che quanto era successo avrebbe finito col trascinare il babbo dalla sua. Ma la scena aveva sconvolto i suoi nervi, che erano sensitivi come quelli di una donna. Decise di non scendere per il pranzo. Non poteva, per quel giorno, tornare a incontrarsi col padre. Quando non aveva compagnia in casa, Wakeham soleva andar fuori alla sera, spesse volte uscendo fin dalle 7:30. E siccome era ormai il pomeriggio avanzato, Philip chiuse a chiave la propria camera e uscì per un lungo giro, pensando di non rientrare finché il babbo non fosse fuori. Prese una barca e discese il fiume fino ad un villaggio particolarmente a lui caro, dove pranzò e rimase fin tanto che fu abbastanza tardi per tornare. Dissensi col padre non ne aveva mai avuti prima di allora e si sentiva stretto dal timore che quel contrasto, appena cominciato, potesse durare per settimane. Durante questo tempo cosa poteva succedere? Non voleva permettersi di precisare il significato di questa involontaria domanda, ma fosse stato nella posizione dell'innamorato di Maggie riconosciuto e ammesso, si sarebbe sentito meno esposto a questo senso di vago timore. Risalì nel suo studio e si buttò nella poltrona con un senso di fatica, girando uno sguardo assente sulle vedute d'acqua e di rupi disposte tutto intorno, finché cadde in un sopore durante il quale gli parve vedere Maggie che scivolava per un lucente, verde melmoso canale verso una cascata ed egli la guardava senza poter aiutare, finché fu destato da qualche cosa che gli parve un'improvvisa, paurosa scossa. Era l'aprirsi della porta, ed egli doveva essersi assopito per pochissimi istanti, già che nessun visibile mutamento s'era fatto nella luce della sera. Era il babbo che entrava. E quando Philip si mosse per cedergli la poltrona, disse: «Rimani pure, preferisco passeggiare». Egli percorse una o due volte la stanza in lungo e in largo, finché, fermandosi di fronte a Philip, con le mani affondate nelle tasche laterali, disse, come continuando una conversazione che non fosse mai stata troncata: Questa ragazza dunque deve essere stata innamorata di te, Philip, altrimenti non ci sarebbero stati tutti quei convegni. Il cuore di Philip stava battendo rapidamente e un rossore fuggitivo gli passò sul viso come un lampo. Non gli fu molto facile di parlare subito. Da bambina a Kings Lorton mi volle bene perché passavo tanto tempo con suo fratello quando si era ferito al piede. Di ciò aveva serbato memoria. E mi considerava come un amico di vecchia data, ma quando ci rivedemmo non mi trattò come un innamorato. Bene, ma tu poi le hai fatto la corte. Che disse allora? Domandò Wakem tornando a passeggiare. Allora disse che mi amava. Accidenti, dunque, che vuoi di più? A civetta? Era molto giovane a quel tempo, disse Philip con esitazione. Temo che non comprendesse bene ciò che sentiva. Ho paura che la nostra lunga separazione e l'idea che le circostanze dovessero dividerci per sempre possano aver mutato le cose. Ma è in città? L'ho veduta in chiesa, non le hai parlato dopo il suo ritorno? Sì, in casa di Mr. Dean, ma per parecchie ragioni non ho potuto ripeterle le mie intenzioni. Se tu dessi il tuo consenso, se fossi disposto ad accettarla come nuora, un ostacolo sarebbe tolto. Wakem rimase in silenzio per pochi minuti, fermo davanti al ritratto di Maggie. Non è però una donna della qualità di tua madre, Phil, disse alla fine. L'ho veduta in chiesa. È più graziosa che in questo ritratto. Occhi diabolicamente belli e magnifica persona, ho ben visto, ma piuttosto pericolosa e difficile da guidare, vero? Oh. È molto tenera e affettuosa, e poi è così semplice, senza tutte quelle arie, quelle astuzie piccine delle altre donne. Ah, disse Wakem. Poi, volgendosi al figlio, ma tua madre era più gentile di aspetto, con i suoi capelli bruni, ondulati, gli occhi grigi come i tuoi. Tu non puoi ricordarti bene di lei. È mille volte peccato che io non abbia un suo ritratto. E allora, babbo. Non saresti contento che avessi anch'io una felicità come quella per addolcirmi la vita? Quale più forte legame per te di quello che hai contratto 28 anni fa, sposando mia madre, e che da allora in poi si è sempre approfondito? Phil, tu sei il solo che conosca il meglio di me, disse Wakem dando la mano al figlio. Bisogna che restiamo uniti più che si può. E ora che devo fare? Scendiamo e tu me lo dirai. Devo andare a far visita a quella damigella dagli occhi neri? Una volta abbattuta così la barriera, Philip poté liberamente parlare col padre di tutte le loro relazioni coi Tulliver, del desiderio di restituire il mulino e la terra alla famiglia e del trasferimento alla Guest & Co. come passaggio intermedio. Ormai poteva arrischiarsi a discorsi persuasivi e stringenti. Il padre si arrese con più prontezza di quanto egli avesse preveduto. Al mulino non ci tengo, disse finalmente, con una sorta di irritata arrendevolezza. Ho avuto un sacco di infernali seccature per quel mulino negli ultimi tempi. Che mi paghino solo i miei miglioramenti, ecco tutto. Ma c'è una cosa che non devi chiedermi. Io non voglio contrattare direttamente col giovane Tulliver. Se tu sei disposto a sorbirtelo per amor della sorella, fa pure, ma per me non c'è salsa che valga farmelo trangugiare. Vi lascio immaginare con che piacevoli pensieri Philip andò all'indomani da Mr. Dean per dirgli che Mr. Wakem era pronto ad aprire le trattative e il grazioso trionfo di Lucy quando domandò al babbo se l'aveva dimostrato sì o no una grande abilità negli affari. Mr. Dean rimase alquanto perplesso. E sospettò che tra quei giovani ci fosse qualcosa che filava e di cui egli non aveva il bandolo. Ma per uomini dello stampo di Mr. Dean, quello che succede tra i giovani è altrettanto estraneo ai veri affari della vita, quanto ciò che succede tra gli uccelli e le farfalle, almeno fino a tanto che non si possa dimostrarne una malefica influenza sugli affari di denaro. Mentre in questo caso l'influenza appariva perfettamente propizia. 9. Carità ben vestita. Il punto culminante della carriera di Maggie, quale ammirata frequentatrice della società di St. Ogg's, fu certamente il giorno della vendita di beneficenza, allorché La sua semplice e nobile bellezza, in una mussolina bianca di una certa qualità leggera e ondeggiante, che io sospetto provenisse dalle provviste della guardaroba di zia Pallet, apparve con singolare rilievo tra le donne più adorne e convenzionali che la circondavano. Forse noi non riusciamo a capire di quanta affettazione sia fatto il nostro contegno in società, fin tanto che non vediamo una persona che sia bella a un tempo e semplice. Dove non c'è bellezza, siamo proclivi a trattare di goffaggi nella semplicità. Le Miss Guest erano troppo bene educate per cadere in quelle smorfiette, in quei modi artificiali che son propri della volgarità pretenziosa. Ma siccome il loro banco era accanto a quello dove sedeva Maggie quel giorno, a un tratto parve evidente che Miss Guest alzava troppo il mento e Miss Laura parlava e si muoveva sempre in vista di un effetto. Tutta St. Ogg's, ben vestita, nonché dintorni, era là. E sarebbe valsa la pena di venirvi anche di lontano per vedere il bel padiglione vecchio col suo soffitto piano e l'intravatura di quercia scolpita e le grandi porte dai battenti di quercia, e la luce che pioveva dall'alto sui multicolori oggetti esposti in vetrina. Un luogo veramente singolare. Dalle pareti dipinte a larghe strisce svanite con qua e là un disegno di animali araldici irsuti e dal muso lungo, diletti emblemi di una nobile famiglia un tempo signora di questo edificio, ora divenuto padiglione comunale. Un grande arco tagliato nella parte superiore della parete, a una delle estremità, sormontava una tribuna di quercia, dietro la quale c'era una sala aperta dove erano state disposte piante di serra e banchi con rinfreschi, gradevole risorsa per i signori decisi a trattenersi e tuttavia desiderosi di abbandonare ogni tanto il pigia-pigia che c'era di sotto per un più comodo punto di vista. Presso il grande arco al di sopra della tribuna c'era il finestrone di pietra con le vetrate dipinte, che era una delle venerande incongruità del vecchio padiglione. E proprio in prossimità di questo, Liu si aveva collocato il suo banco per meglio esporre certi grandi e semplici articoli di cui si era incaricata a nome di Mrs. Ken. Maggie aveva chiesto di potersi sedere all'estremità del banco e di vendere lei quegli articoli, piuttosto che i tessuti di perle e altri prodotti raffinati di cui non si intendeva che mediocremente. Ma le vestaglie da uomo, che figuravano tra le sue merci, subito si dimostrarono oggetto di tale attenzione e di così generale richiesta e suscitarono così importuna curiosità circa le loro fodere, i loro meriti relativi e desiderio insieme di rendersene conto provandole che il posto di Maggie divenne molto popolare. Le dame che avevano da vendere oggetti di loro confezione e non abbisognavano di vestaglie, notarono subito la leggerezza e il cattivo gusto di questa preferenza degli uomini per una mercanzia che qualunque sarto avrebbe potuto fornire. E forse fu appunto l'eccessiva attenzione di vario genere, concentratasi su Miss Tulliver in quella circostanza, a suscitare in molti dei presenti certi gravi e inappellabili punti di vista sulla sua condotta a venire. Non già che il dispetto per la propria bellezza disprezzata possa soggiornare nelle angeliche anime delle dame caritatevoli. Vero è piuttosto che gli errori delle persone che sono state un tempo molto ammirate prendono una tinta più fosca per la sola forza del contrasto. E per di più, il fatto che Maggie quel giorno si trovava per la prima volta così in vista mise in luce taluni caratteri ai quali si attribuì in seguito una portata sintomatica. C'era qualcosa di un po' audace nello sguardo fisso e diritto di Miss Tulliver, e qualcosa di indefinibilmente rude nello stile della sua bellezza che la metteva, nell'opinione di tutti i giudici femminili, molto al di sotto di sua cugina Miss Tien, giacché le signore di St. Ogg's avevano ormai completamente ceduto a Lucy i loro ipotetici diritti all'ammirazione di Mr. Stephen Guest. Quanto alla cara piccola Lucy, il suo recente affettuoso trionfo nell'affare del mulino e tutti i teneri progetti che la vagheggiava per Maggie Philip contribuivano quel giorno a renderla di ottimo umore, sicché non provava se non piacere per l'evidente fascino di Maggie. Vero è che anch'ella appariva molto affascinante e Steven le offriva, in questa pubblica occasione, le più assidue attenzioni, comprando con gelosa cura gli articoli che aveva veduto nascere sotto le sue dita e gaiamente aiutandola a lusingare i clienti maschili all'acquisto delle più effeminate futilità. Volle deporre il suo cappello e mettersi un fez rosso da lei ricamato, ma questo da parte degli osservatori superficiali era necessariamente soggetto a venire interpretato meno come un complimento agli usi che come un segno di fatuità. Guest è un frivolone, osservò il giovane Torri, ma St. Oaks è un individuo privilegiato, è sempre lui che ha ragione. Se un altro facesse delle cose simili, tutti direbbero che si rende ridicolo. E Steven non comprò assolutamente nulla da Maggie finché Lucy non gli disse alquanto contrariata e a bassa voce: «Ecco, vedi, tutti i lavori di maglia di Maggie se ne saranno andati e tu non ne avrai acquistato nemmeno uno. Ci sono quei polsini così soffici e caldi, comprali!» «Oh no!» disse Steven. «Sono evidentemente destinati alla gente d'immaginazione che col caldo di quest'oggi può sentirsi gelare al pensiero dei ghiacci del Caucaso. Il mio debole è di ragionare sempre, lo sai. Queste cose devi farle comprare a Philip. A proposito, perché non viene? Non gli è mai piaciuto di andare dove c'è tanta gente, quantunque io gli abbia ordinato di farsi vivo. Mi ha detto che avrebbe acquistato qualcuno dei miei articoli, quelli che il resto del pubblico disprezza, ma insomma, va a comprare qualche cosa da Maggie. No, no, guarda, ha un compratore. Ecco che sta giungendo il vecchio Wakeham.